Perfetto Giorno di Simone Spezia. La rottura di un oleodotto a Genova, migliaia di litri di petrolio sversati in un torrente, vigili del fuoco al lavoro, la procura apre un'inchiesta. 5 morti in 2 incidenti, la procura di Vibo Valentia chiude un tratto della Salerno-Reggio Calabria, ci sono difetti strutturali nell'asfalto, mancano illuminazione e barriere di protezione. Ci sarebbe stata una nuova tragedia del mare ad un anno dalla morte dei 700 al largo di Lampedusa, 400 tra somali ed eritrei che sarebbero dispersi durante il viaggio dall'Egitto all'Italia, ma non ci sono ancora conferme, 6 cadaveri in un gommone arrivato in Sicilia intanto. Il giorno dopo il fallimento del referendum, il presidente pugliese Emiliano torna all'attacco, la consulta decida se Renzi ha violato la Costituzione. Il Brasile rischia di trovarsi senza presidente alla vigilia delle Olimpiadi, la Camera ha votato per la messa in stato di accusa di Dilma Rousseff e ora tocca al Senato. Nel campionato domina la scena il caso Totti, la lite smentita con Spalletti, l'entrata in campo per il gol del pareggio. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti sono i soliti, il 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp e per gli aggiornamenti da noi, per qualche anticipazione sulla trasmissione nell'arco della mattinata c'è il canale Telegram, telegram.me/effettogiorno. In apertura dunque parliamo di cronaca e ci occupiamo di quello che sta succedendo a Genova, dove appunto si è rotto un oleodotto e siamo in linea con l'assessore alla protezione civile del comune Gianni Crivello. Assessore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie. Ci dà un quadro della situazione al momento? Sì, come ricordava lei poc'anzi, la rottura è stata attorno alle 19.30, insomma 19.45 di ieri sera, quindi da subito con i vigili del fuoco dopo le 20 ci siamo attivati per schiumare, per porre delle panne, sono questa sorta di diga galleggiante sul rio Fegino, che è il rio che è più in prossimità, diciamo, della criticità, per poi intervenire in maniera più significativa sul torrente Polcevera, che in qualche modo è il torrente maggiore che riceve come affluente il Fegino, posizionando anche lì, schiumando diga e poi intervenendo con una diga di terra e pietre per evitare che il tutto finisse poi in mare. Ma mi sembra di aver capito che la diga in realtà non ha retto, in mare è arrivato qualcosa. No, la diga è stata ovviamente posizionata in veramente in tempi, mi creda, brevi, questo, i vigili del fuoco sono, come dire, encomiabili, poi è intervenuta anche l'impresa. È evidente che qualcosa, come mi confermava l'ammiraglio, non molto, è finito in mare in questo momento, quanto si sa. Poteva però, mi creda, essere una situazione davvero molto molto più critica, non che non lo sia, ma poteva, se non ci fosse stata questa sorta di barriera. Adesso con un sistema di vasi di comunicanti bisogna separare l'acqua dal greggio, successivamente aspirare il greggio e poi procedere con la bonifica, ma credo che sia una situazione, come dire, complessa. Chi avrà le responsabilità, naturalmente. Allora, assessore, noi torneremo a collegarci con lei più avanti nel corso della trasmissione per un ulteriore aggiornamento. Io intanto la ringrazio per questo primo punto della situazione e ci sentiamo tra poco. E visto che parliamo di petrolio, veniamo al dopo referendum, percentuale di votanti al 32%, consultazione sul prolungamento delle concessioni fallita. Alessandra Schepisi. Sì Simone, così, consultazione fallita, come sappiamo l'affluenza si è fermata al 31,1%, dunque un numero ben lontano dal raggiungimento del quorum, un esito che ha comunque riacceso il dibattito politico anche all'interno del PD. Ieri Renzi è passato subito all'incasso parlando pochi minuti dopo la chiusura dei seggi, i vincitori ha detto sono gli 11.000 lavoratori che avrebbero rischiato il posto, gli sconfitti invece quei pochi consiglieri regionali e qualche presidente di regione che hanno voluto cavalcare a tutti i costi un referendum per esigenze personali e particolari. Un affondo diretto al governatore della Puglia, Michele Emiliano, capofila dei promotori della consultazione, il quale ha biasimato la linea dell'astensione rivendicata da Renzi. La consulta dica se ha violato la Costituzione. Emiliano, che questa mattina è intervenuta a Mix 24, sentiamo. Lui la politica la vede così, è sempre una contesa personale, onestamente non è assolutamente la mia idea della però politica. Renzi l'ha detto, 15 milioni di persone che si sono informati, che avevano una idea del futuro del paese, sono andati a votare, non fanno parte di un partito, non appartengono a nessuno, tantomeno a me ovviamente. E mentre Grillo ringrazia gli attiliani che hanno votato, da Forza Italia a Brunetta dà appuntamento al referendum di ottobre sulla riforma costituzionale. Quei 16 milioni di cittadini che ieri hanno disobbedito a Renzi, dice, sono una buona base per vincere. Poco fa è intervenuto anche il presidente del comitato per il sì al referendum, Pietro La Corazza, ha detto, grazie al referendum ci sono state modifiche alla normativa proposte dal governo, approvate dal Parlamento, questa non è demagogia. A te Simone. E grazie Alessandra Schepisi. L'ex sindaco di Corleto Perticara, siamo in provincia di Potenza dove c'è l'inchiesta che riguarda anche il petrolio, Rosaria Vicino resta agli arresti domiciliari, lo ha deciso il tribunale del riesame che ha respinto il ricorso presentato dal legale della donna che è domiciliare appunto dallo scorso 31 marzo nell'ambito dell'inchiesta sul petrolio. Nel frattempo in uno dei filoni dell'inchiesta emergono nuovi nomi. Nell'inchiesta di Potenza sul sito petrolifero di Valdagri emergono nuovi dettagli dalle carte degli inquirenti. Il cosiddetto quartierino romano, di cui avrebbe fatto parte Gianluca Gemelli, compagno dell'ex ministro allo sviluppo economico Federica Guidi, puntava a fare affari nel porto di Augusta, Siracusa. Sarebbe dovuto diventare il principale centro di smistamento del petrolio del Mediterraneo e qui il gruppo di indagati avrebbe dovuto spartirsi gli affari nel settore ingegneristico e delle infrastrutture. Tra i nomi dell'inchiesta spunta quello di Ivan Lobello, vicepresidente di Confindustria, indagato per associazione a delinquere finalizzata al traffico di influenze illecite. Questo reato è il cuore dell'inchiesta. L'ipotesi è che il gruppo utilizzasse relazioni personali, in particolare quello di Gemelli con la compagna Guidi, per avere propri vantaggi e fare pressione nell'attività normativa del governo e del Parlamento. Reato ben diverso dalla corruzione. La Guidi sarebbe infatti tecnicamente parte lesa in questo dossier. Intanto oggi è attesa anche la decisione del Tribunale del Riesame, che dovrebbe decidere sul mantenimento o meno della custodia cautelare a 5 dirigenti dell'ENI accusati di traffico per lo smaltimento di rifiuti tossici. Sara Monaci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Potenza. Ci spostiamo a Vibo Valentia, adesso ci spostiamo in Calabria per la A3, la Salerno-Reggio Calabria. È stato disposto il sequestro preventivo di una galleria e ovviamente si verificheranno dei problemi. Sentiamo come nasce la vicenda da Francesco Straticò. Buongiorno Francesco. Buongiorno a te. Il 23 novembre scorso fu il 19enne Domenico Napoli a perire in un incidente in quella galleria della A3 in direzione sud, nei pressi di Mileto. Il 1 marzo ci fu poi la morte di altri 4 ragazzi, tutti con età compresa tra i 22 e i 24 anni, tutti di Gioia Tauro. Un altro triste episodio che ha molto colpito l'opinione pubblica calabrese. I ragazzi tornavano a casa dopo aver passato una tranquilla serata a Cosenza. Due incidenti di cui ancora si cercano le esatte cause. Ci sono in corso le indagini che hanno avuto poi un impulso decisivo dopo la presentazione di un esposto da parte dei familiari delle vittime. E così oggi quella galleria è stata oggetto di un sequestro preventivo. La procura di Vibo Valentia ipotizza, leggo letteralmente, gravi difetti strutturali della sede stradale. In poche parole, per capirci, a una certa velocità si rischierebbe di sbandare e di finire contro le pareti del tunnel. Ci sono 7 persone tra funzionari dell'ANAS e imprenditori che sono attualmente indagate. È una notizia naturalmente che ha bisogno di ulteriori approfondimenti. Per il momento quella galleria è chiusa. Ti ringrazio, grazie a Francesco Straticò dalla Calabria per questo aggiornamento e veniamo a quello che sta succedendo nel Mediterraneo, dove secondo delle voci che si sono diffuse questa mattina, anche secondo fonti di stampa, sarebbero disperse 400 persone, ma su tutto questo non vi è certezza. Vediamo di fare un punto con Laura Bettini. Laura. Buongiorno, siccome dicevamo negli scorsi giornali radio, 400 migranti, la maggior parte sarebbero somali, ma con loro ci sarebbero anche etiopi ed eritrei, dispersi nel Mediterraneo, erano su 4 imbarcazioni diverse, erano partiti, sembra, dall'Egitto, diretti verso l'Italia. Questa è la notizia diffusa stamattina dalla BBC in arabo, in base a informazioni che abbiamo capito essere state raccolte in Kenya, notizia poi rimbalzata in Gran Bretagna e lì, da lì ovviamente in Italia. Io stesso per verificarlo ho cominciato a fare diverse telefonate, la Marina Militare, la Guardia Costiera di Augusta, l'UNHCR, Medici Senza Frontiere, sto cercando Frontex, la Guardia Costiera Nazionale, diciamo adesso anche, non ho trovato nessuno che potesse confermarmi che questo era accaduto, quindi le notizie che abbiamo al momento sono quelle che vi abbiamo dato. La stampa somala aggiunge che ci sarebbero 30 persone tratte in salvo, ma da chi a questo punto non è chiaro. Diffondono anche sempre sulla stampa somala elenchi di dispersi. Tutto questo però senza alcuna certezza al momento. Questo dal punto di vista di questa vicenda, mentre invece abbiamo una certezza che sono 6 vittime trovate su un gommone, sì, Laura. Sì, 6 vittime trovate su un gommone carico di migranti diretto verso l'Italia. Si trovava nel canale di Sicilia, circa 20 miglia dalle coste libiche, e qui purtroppo c'è appunto la certezza delle vittime e del fatto che 108 persone sono state tratte in salvo. Ti ringrazio, grazie Laura Bettini per questo aggiornamento. Noi ci spostiamo all'estero a parlare di quello che è successo in Brasile, dove i deputati hanno dato il via libera alla procedura di destituzione, di impeachment della Presidente da parte del Senato con un'ampia maggioranza in un voto storico che si è svolto in un'aula carica di tensione. Dilma Rousseff ha fatto sapere che parlerà oggi del voto. Appunto, serve ancora l'approvazione del Senato, ma la strada sembra tracciata. Abbiamo chiesto un'analisi a Paolo Magri, direttore dell'ISPI. Beh, non è la prima volta nella storia democratica del Brasile, perché già nel 92 un presidente Collor venne sottoposto alla procedura di impeachment e dove si dimise. Cade in un momento molto delicato, però cade in un momento di paese in crisi economica, la peggiore dell'ultimo secolo, di grande contrasto sociale, di grande contrasto fra istituzioni, e questa fase di incertezza non aiuterà a risolvere i problemi del Brasile, perché comunque vada avremo un periodo di incertezza. Un periodo di incertezza che tra l'altro cade in un momento particolare per il Brasile, perché stanno arrivando le Olimpiadi. Sì, stanno arrivando le Olimpiadi e che seguono i mondiali di 2 anni fa, mondiali che avviarono il ciclo delle proteste a quella fase di 2 anni fa. È succeduta poi una tempesta politica, le elezioni presidenziali che hanno spaccato in due il paese, poi nel frattempo è arrivata la crisi, meno 4% le previsioni sul PIL quest'anno, in ciò un governo che non ha la forza di prendere posizioni forti di riforme, di reazione, come non le avrà il vicepresidente Temer se l'impeachment andasse in porto. È un vicepresidente che dovrà contare su un appoggio di una coalizione ampia, quindi con una forza politica molto limitata. Questa dunque è l'analisi di Paolo Magri, direttore dell'ISPI, su quello che è successo in Brasile. Noi restiamo all'estero, iniziando dal Giappone, dove il terremoto ha tra l'altro fermato alcune fabbriche, oltre ovviamente ad aver fatto vittime e sfollati. La situazione resta molto difficile in molte aree del Kyushu, Giappone meridionale, colpito dal doppio terremoto della fine di settimana scorsa. Al di là delle 42 vittime accertate, dei 9 dispersi e degli oltre 1.100 feriti, sono ben 110.000 gli sfollati. Nei centri di accoglienza e nelle località remote si stanno verificando carenze di cibo a causa dei danni alle infrastrutture di trasporto. Le forti piogge di ieri hanno inoltre aumentato il rischio di nuove frane. Mentre il governo del premier Shinzo Abe ha già ventilato l'idea di un budget supplementare di spesa, si stanno manifestando pesanti conseguenze per l'economia nazionale. A causa di carenze di componentistica prodotta nel Kyushu, ad esempio, la Toyota ha deciso di sospendere per una settimana l'attività nelle catene di assemblaggio nell'intero Giappone, e i titoli delle società automobilistiche di elettronica con fabbriche nella regione hanno trascinato oggi a ribasso la borsa di Tokyo, che ha chiuso in calo del 3,4%. Stefano Carrer, Radio 24, Il Sole 24 ore, Tokyo. E c'è da parlare degli effetti di un altro sisma, quello avvenuto in Ecuador. La zona più colpita è quella settentrionale sulla costa, nella provincia di Esmeraldas, e quella di Manabi. Al forte sisma di 7.8 sono seguite ben 55 scosse di assestamento. I danni sono gravi, ha già fatto sapere il presidente Correa, rientrato precipitosamente da una visita in Vaticano. Difficili da quantificare, anche perché a causa delle piogge cadute nelle ultime ore, molte strade sono inagibili. 1.200 volontari sono già al lavoro e squadre di soccorso sono in arrivo dalla Colombia e dal Messico, mobilitate insieme a 10.000 unità dell'esercito. Si cercano eventuali superstiti sotto le macerie e le molte vittime. Il bilancio continua a salire e anche i feriti sono oltre 2.000. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci occupiamo adesso del Fondo Atlante, quello che si dovrebbe fare carico di parte delle sofferenze, dei crediti inesigibili delle banche e degli aumenti di capitale. Sentiamo. Dopo la conferma delle adesioni da parte di banche, fondazioni e CDP, Atlante si prepara alla sua prima missione. Il veicolo sostituirà Unicredit, maggiore sottoscrittore del fondo insieme a Intesa San Paolo, nel garantire l'iniezione di risorse nella Popolare di Vicenza, 1,7 miliardi di euro in tutto, poi toccherà a Veneto Banca. Il timore è che una parte degli aumenti di capitale non venga sottoscritta dal mercato, indebolendo il sistema, e qui entra in gioco il fondo Atlante, che avrà un capitale tra 4 e 6 miliardi di euro. Un miliardo ciascuno arriverà da Cade Sas e Gaia Olenti. Popolare dell'Emilia Romagna e Popolare Milano metteranno 100 milioni a testa, il Monte dei Paschi 50, Carige 20 milioni, per ultima Popolare di Sondrio ha annunciato massimi 50 milioni di euro. Accanto alla garanzia negli aumenti di capitale, il fondo comprerà dalle banche pacchetti di sofferenza a prezzi ragionevoli. In tal senso sono attese nuove misure del governo per diminuire i tempi di recupero dei crediti, una variabile che incide fortemente sul valore. Livia Zancanero, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Occupiamoci del campionato. Adesso la giornata di ieri è stata dominata evidentemente dal caso Totti. Totti sì, Totti no. L'ennesima lite così plateale tra il divin Pupone e Spalletti ha soprattutto un merito: di chiarire tutto. La Roma non lo vuole più. Anche se Totti si rivela decisivo, Spalletti, che è il braccio armato della società, gli dice che ha fatto solo il suo dovere, che anzi ha fatto perdere tempo alla squadra festeggiando troppo il gol. Messaggio per dire: sei un grande, ma non più con questa maglia. Il destino dei grandi, nella vita come nel calcio, è quello di dover fare i conti col tempo che passa. A un certo punto arriva un mastino che ti dice brutalmente che non servi più. Forse un grande campione deve essere così bravo da saltare un attimo prima anche l'ingratitudine. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso ci fermiamo, come sempre c'è il traffico, poi tra un attimo andremo a collegarci con Montecitorio perché sono in corso le audizioni sul DEF, il documento di economia e finanza, sono iniziate alle 13, sta parlando in questi minuti, sta esprimendo la sua opinione la Banca d'Italia, andremo a sentire che cosa dice e poi torneremo a Genova per darvi un aggiornamento su quello che sta succedendo dopo la rottura di un oleodotto che sta sversando in un torrente e in parte questo petrolio è arrivato nel mare e poi ci occuperemo anche di Expo perché è vivo il concorso per dare il nuovo nome all'area sul sito della Regione Lombardia. C'è tempo fino al 25 di aprile, abbiamo un'intervista con l'assessore che ce lo racconta tra poco. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Effetto Giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli: la rottura di un oleodotto a Genova, migliaia di litri di petrolio sversati in un torrente, sono entrati anche in mare, i vigili del fuoco sono al lavoro, la procura ha aperto un'inchiesta. Per 5 morti in 2 incidenti è stato chiuso un tratto della Salerno-Reggio Calabria perché ci sono difetti strutturali nell'asfalto, mancano illuminazione e barriere di protezione. Ci sarebbe stata una nuova tragedia del mare, ma non ci sono ancora conferme. Pochi istanti fa lo stesso ministro Gentiloni ha detto che non si sa. Ad un anno dalla morte dei 700 al largo di Lampedusa, 400 tra somali ed eritrei dispersi durante il viaggio. Il Brasile, che rischia di trovarsi senza presidente alla vigilia delle Olimpiadi, la Camera ha votato per la messa in stato di accusa di Dilma Rousseff. Veniamo dunque alla Banca d'Italia, le audizioni sul DEF, il documento di economia e finanza, iniziano oggi, appunto sono iniziate alle 13 e stanno parlando i rappresentanti della nostra banca centrale, ci colleghiamo con Vincenzo Miglietta che le sta seguendo. Vincenzo, eccoci. Sì, buongiorno. Con la Banca d'Italia, lo ricordavi Simone, hanno preso il via le audizioni sul documento di economia e finanza. Oggi sono previsti tra gli altri ABI, sindacati e Confindustria, domani il ministro dell'economia Padoan. Da Banca Italia subito un rilievo: lo scenario programmatico del DEF non può dirsi implausibile sulla base dell'attuale situazione congiunturale, ma resta il rischio di evoluzioni meno favorevoli. A parlare il vice direttore generale di Banca Italia Luigi Signorini, che aggiunge le tensioni geopolitico geopolitiche potrebbero ripercuotersi sulla fiducia di famiglie ed imprese. Ed ancora, i mercati finanziari restano soggetti a una forte volatilità, dice Signorini. Quanto agli indicatori macroeconomici, è un fatto positivo che, nonostante il peggioramento delle proiezioni di crescita, sia stato confermato l'obiettivo di avviare la riduzione del debito a partire da quest'anno. Ma i margini non sono ampi. Per garantire il raggiungimento dell'obiettivo, conclude il rappresentante dell'Istituto di Via Nazionale, sarà necessario mantenere durante l'anno uno stretto monitoraggio dei conti pubblici. E per il momento è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta per questo aggiornamento. Occupiamoci di Expo adesso. La Regione Lombardia in questa fase cerca il nuovo nome con un concorso, mentre vanno avanti i lavori di smantellamento degli ultimi padiglioni. L'ex area Expo è pronta a riaprire i battenti. Il 1° maggio ci sarà una cerimonia simbolica per 500 persone con un concerto dell'Accademia della Scala e la riaccensione dell'Albero della Vita. Poi dal 25 maggio cancelli aperti per Andrea Bocelli nel Teatro L'Aperto, e dal 27 fino a settembre l'ex Cardo ospiterà la triennale. Non si parlerà però più di Expo, appunto. Come si diceva, la Regione Lombardia ha bandito un concorso per trovare un nuovo nome, lo racconta Francesca Brianza, assessore al Post Expo e alla Città Metropolitana, nell'intervista di Livia Zancanera. Sul sito di Regione Lombardia c'è questo concorso di idee aperto a tutti i cittadini, perché quest'area non possiamo più permetterci di chiamarla post-expo, post qualcosa, siccome abbiamo parlato di ricerca, di sviluppo, di scienza, di innovazione, di polo tecnologico, ma anche di istruzione, di polo universitario e di tanto altro, è giusto che quest'area si riapra a una nuova vita. Avete già ricevuto delle proposte? È un concorso che è aperto fino al 25 di aprile. In questo momento abbiamo ricevuto già 300 proposte, dopodiché verranno vagliate da una commissione e il 1° di maggio verrà proclamato il vincitore. E quindi, se volete votare per dare un nome all'area Post Expo, c'è il sito della Regione Lombardia. Adesso ci occupiamo di cinema. Oggi David Di Donatello, tradizionalmente la sfilata dei candidati oggi alla presenza del Presidente della Repubblica, Mattarella. Sentiamo. Anche due riconoscimenti speciali alla cerimonia di presentazione dei candidati ai premi David Di Donatello per l'anno 2016, giunto alla sua 60ª edizione. I riconoscimenti sono andati ad un'attrice e due registi simboli del cinema italiano, Gina Lollobrigida e Paolo e Vittorio Taviani. A consegnare i David il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che nel suo discorso ha detto: l'Italia ha bisogno del cinema, di un cinema vivo. Sentiamo. Le risorse pubbliche sono limitate e vanno utilizzate sempre con rigore e trasparenza. Tuttavia, vorrei che giungesse chiaro il messaggio che i risultati artistici, culturali, economici, di diffusione del cinema italiano ci stanno a cuore e costituiscono un bene per l'intero paese. E questa sera la cerimonia ufficiale, una cerimonia completamente reinventata che verrà trasmessa su Sky Cinema 1 e in chiaro sul canale 8 del digitale terrestre. Tra i grandi favoriti della serata lo ricordiamo soprattutto Non essere cattivo di Claudio Caligari, con ben 16 nomination, così come lo chiamavano Gigro Bo di Gabriele Mainetti, sempre con 16 candidature, seguiti da Youth, la giovinezza di Paolo Sorrentino con 14 nomination, Il racconto dei racconti di Matteo Garrone con 12 nomination, Perfetti sconosciuti di Paolo Genovese con 9 candidature, La corrispondenza di Giuseppe Tornatore con 6, Suburra di Stefano Sollima con 6 e Fuoco a mare di Gianfranco Rosi con 4 nomination. Una serata da non perdere che si promette davvero in pieno stile hollywoodiano. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso ci fermiamo, ci ritroviamo come sempre per fare il punto con i mercati e poi nella seconda parte della trasmissione torneremo a collegarci con l'assessore della Protezione Civile del Comune di Genova su questo sversamento avvenuto appunto a causa della rottura di un oleodotto. Tra poco. Effetto giorno. Eccoci di nuovo con Effetto Giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: la rottura dell'oleodotto a Genova e migliaia di litri di petrolio sversati in un torrente. La procura di Vibo Valentia ha chiuso un tratto della Salerno-Reggio Calabria. Ci sono difetti strutturali nell'asfalto, 5 vittime in 2 incidenti nei mesi scorsi. Ci sarebbe stata una nuova tragedia del mare con 400 tra somali ed eritrei dispersi durante il viaggio dall'Egitto all'Italia, ma non ci sono conferme. Il giorno dopo il fallimento del referendum, il presidente pugliese Emiliano torna all'attacco. La consulta decida se Renzi ha violato la Costituzione. Qualcuno ci chiede di chiarire, al di là del quorum che è stato che non è stato raggiunto con un 31,18% di votanti, quali sono state le percentuali? I sì all'85,8%, i no al 14,1%. Qualcuno ce lo chiede via WhatsApp. Infine, il Brasile, che rischia di trovarsi senza presidente alla vigilia delle Olimpiadi. La Camera ha votato per la messa in stato di accusa di Dilma Rousseff e ora tocca al Senato la borsa. JP Morgan Asset Management vi presenta Effetto Giorno. Ed eccoci di nuovo, e di nuovo con l'assessore alla protezione civile del comune di Genova, Gianni Crivello, per avere un aggiornamento su quello che sta succedendo a causa appunto della rottura di un oleodotto e dello sversamento di migliaia di litri di greggio in un torrente, parzialmente arrivato al mare, poi si è riuscita a contenere la cosa. Assessore, la situazione è sotto controllo oppure no? La situazione è sotto controllo. Tra poco, attorno alle 14:15, abbiamo deciso con il sindaco di convocare questo che noi definiamo in gergo COC, che in genere è uno strumento che si utilizza, diciamo, ahimè, in questa città per gli eventi alluvionali o comunque per gli stati di allerta. Lo abbiamo convocato chiedendo che attorno a questo tavolo si siedano anche tutte le aziende, i soggetti istituzionali, ARPAL, e anche l'impresa, l'azienda che è la IPLO, perché vogliamo fare il punto della situazione, capire cosa è stato fatto e cosa è opportuno e necessario fare, ecco, condividere e socializzare tutti i vigili del fuoco, naturalmente, tutte le notizie utili per poi in maniera trasparente far sapere alla città qual è lo stato dell'opera. Ci sono rischi per le persone? Ma guardi, già ieri sera noi abbiamo invitato, perché era più che comprensibile, guardi, per la realtà questa di Fegino è una realtà complessa dove la sofferenza si sta un po' protraendo anche per altre ragioni di mobilità. La gente era arrabbiata, l'abbiamo invitata a tornare nelle proprie case per un problema di esalazioni, più che altro, perché in effetti anche a noi dava un po' fastidio. Credo che pericoli anzi non ce ne sono, però quest'oggi dalla ASL, che naturalmente è stata invitata, vorrei nero su bianco per poter comunicare ufficialmente ai cittadini di quella realtà che, come peraltro abbiamo anche riaperto la strada stamattina in senso unico alternato, e quindi i rischi da questo punto di vista non dovrebbero essere. La dimensione del danno ambientale è grave, assessore, oppure no? Da quel che è riuscito a intuire, poi immagino che alle 2:15 in questa riunione avrete un chiarimento anche su questo, per carità, però come idea di massima. Sì. Ma l'idea di massima è che io, senza drammatizzare, credo che sia una situazione critica. E la verità è che comprendere quanto greggio è fuoriuscito da quella tubazione, dal momento in cui vi è stata questa sorta di esplosione che pare sia stata appunto generata, chissà, forse dalla pressione, ma comunque lì c'è un'indagine in corso, al momento in cui sono stati interrotti i flussi con le valvole, come accade nei casi di emergenza, questo non siamo in grado di poterlo dire. Devo dire che però la quantità di materiale, questo mette in evidenza l'importanza dell'intervento, mi è parsa significativa. Vediamo se riusciremo poi, attraverso un po' di calcoli, a capire a tutti gli effetti quanto si aggira la quantità, i volumi del materiale che è finito nel Rio Fegino e successivamente nel Polcevera. La ringrazio e buon lavoro. Grazie naturalmente. Voi, buon, lavoro. Buon lavoro all'assessore Gianni Crivello, assessore della protezione civile del comune di Genova. Adesso ci fermiamo, c'è Mario Platero con America 24, ci risentiamo alla fine per i saluti intorno alle 13:45.